24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In Grecia riprendono gli scontri e i feriti dopo il suicidio in piazza Sintagma ad Atene di un farmacista come estrema protesta contro i tagli a stipendi e pensioni. Spararsi, ha lasciato scritto il suicida, è l'unica forma di lotta dignitosa prima di ridursi a frugare cibo nella spazzatura. Un austerity che non lascia speranza in diversi casi anche in Italia, dove si sono moltiplicati i suicidi in seguito alla perdita del posto di lavoro o all'impossibilità per gli imprenditori a pagare debiti e tasse. Il premier Monti dovrebbe fare come i principi di un tempo e scendere nei mercati, stare in mezzo alla gente, cercare di essere meno distaccato dalle cose reali. E questo l'originale invito rivolto al presidente del Consiglio italiano dal filosofo, poeta e scrittore Guido Ceronetti, intervenuto in diretta a Salvadanaio su Radio 24 a proposito di questi gesti estremi. L'Italia non è un paese da suicidi, da epidemie di suicidi, non è né Vienna né la Svezia né l'Ungheria. L'Italia è un paese dove il suicidio facile non esiste. E invece adesso è diventato sono una quindicina, non lo so, mi pare, negli ultimi due mesi. Ed è proprio questa vita concreta quella a cui posso pensare, e qui potrei dire per quanto riguarda il governo Monti, non ce n'è uno che più di questo sia distaccato dalle cose reali, ma un piccolo paragone che si può fare, no? Invitare Monti e il suo governo a fare come facevano i principi di una volta, ecco, scendere travestiti nei mercati, ascoltare i pareri della gente. Intanto in Spagna, dove la disoccupazione raggiunge record storici, è partita una singolare campagna della Conferenza Episcopale Spagnola, un video spot in cui 9 sacerdoti promettono il posto fisso. ¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. Non ti prometto un grande stipendio, ma ti prometto un posto fisso. È un video spagnolo quello che sentite. Nella Spagna, con oltre il 20% di disoccupati e un giovane su due senza lavoro, che è la nuova frontiera della crisi europea. È stato pubblicato su YouTube, sui principali social network e su un sito che contiene anche gli indirizzi dove rivolgersi. Ma gli indirizzi, appunto, sono quelli degli istituti per seminaristi di tutta la Spagna. Sì, perché il messaggio «non ti prometto un grande stipendio, ti prometto un posto fisso» è la campagna promossa dalla Conferenza Episcopale Spagnola per trovare nuovi seminaristi. Un video costato 7.000 euro. Una Spagna che nella crisi ritrova una religiosità persa negli anni di Zapatero, del contrasto con il Vaticano e dei dati economici con il segno più. I dati dei seminaristi nel paese iberico hanno sorpreso non pochi osservatori, rivelando un aumento del 4,2% di vocazioni nel 2010-2011 in confronto all'anno precedente. Provocazione o meno, oggi la Spagna si interroga anche su questo. No te prometo seguridades humanas. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Firmato l'accordo tra Germania e Svizzera sui patrimoni nascosti, mentre l'Italia ancora non blocca la fuga dei capitali. Germania e Svizzera hanno firmato ieri a Berna un accordo per riportare in patria i capitali dei cittadini tedeschi spostati illegalmente nelle banche elvetiche negli ultimi 10 anni. Avete già sentito questa notizia? Bravi, infatti l'accordo c'era già stato, ma ora l'intesa viene corretta al rialzo. Ora gli evasori che vogliono riportare in terra tedesca i soldi pagheranno una tassa sui capitali scudati del 41% rispetto al 19-34% dell'intesa precedente. Secondo stime recenti, in Svizzera ci sarebbero tra 130 e 180 miliardi di euro di proprietà tedesca. E quindi la Merkel incasserebbe parecchio. Ma perché l'Italia non fa un accordo simile? Si tratterebbe, si calcola, di almeno 14 miliardi di euro di pronta cassa. Il perché Monti l'ha spiegato più volte. Ancora ai primi di marzo ha detto che accordi del genere sono a rischio di procedura comunitaria. Curioso che il paese che ha inventato lo scudo fiscale con una tassa di appena il 5% sui capitali scudati si faccia scrupoli di questo genere di fronte all'opportunità di riportare in patria capitali tassati fino al 40%. Anche perché, ad esempio, sui frontalieri, in occasione della sua visita visita al centro comune di ricerca di Ispra, il presidente della Commissione europea Barroso, il 16 marzo, ha detto che si tratta di una questione fra Italia e Svizzera e questi due paesi devono stringere accordi bilaterali. In ogni caso, intanto, la Germania va avanti e incassa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stata sistemata la perdita d'acqua dal circuito di raffreddamento di un reattore nucleare in Francia. Lo ha annunciato la società EDF che gestisce l'impianto. L'accaduto non ha ostacolato il raffreddamento del reattore e non ha avuto conseguenze sull'ambiente, secondo quanto afferma la società. L'incidente, che si è verificato nella centrale di Penly, nel nord della Francia, è stato provvisoriamente classificato a livello 1 su una scala di 7. Secondo le prime ricostruzioni, la mancanza di olio in una pompa di alimentazione sarebbe alla base dell'accaduto. L'autorità francese per la sicurezza nucleare ha disposto un'ispezione nel sito. Emergenza tunisini nei CIE di Roma. Attratti dalla falsa notizia di un'imminente sanatoria in Italia per l'ottenimento del permesso di soggiorno, in centinaia sono tornati nel nostro paese dalla Francia, che ora impedisce il loro rientro. Lo rende noto il garante dei detenuti del Lazio, Angelo Marroni, secondo il quale queste persone vivono ora una situazione paradossale, dal momento che sono state truffate da chi ha fatto loro intendere un'imminente sanatoria e non possono tornare da parenti ed amici che fino a pochi giorni fa li avevano ospitati in Francia. Secondo quanto riferisce Marroni, nelle scorse settimane una sedicente associazione umanitaria ha sparso fra i tunisini la finta notizia di una sanatoria in Italia legata al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vendendo a costoro a 20 euro anche la ricevuta per la richiesta del nuovo documento di soggiorno. Giunti in Italia, spinti dalla speranza, in centinaia hanno sostato per giorni davanti all'ufficio immigrazione di Roma in attesa di vedere invano rinnovato il loro titolo di soggiorno. Panico a bordo di un volo della compagnia irlandese Ryanair, partito da Bergamo e diretto a Nottingham in Inghilterra. L'aereo ha dovuto fare un atterraggio di emergenza in Germania dopo una depressurizzazione in cabina 15 minuti dopo il decollo. I passeggeri hanno sentito il pilota che lanciava l'SOS e visto le cime delle Alpi innevate sempre più vicine mentre l'aereo scendeva rapidamente a quota 3.000 metri. In Ungheria le forze antiterrorismo hanno arrestato un uomo che ha ucciso 4 persone, a quanto pare tutti i suoi familiari, e ha ferite gravemente altre 3 usando una roncola, una sorta di macete. È accaduto nel villaggio di Kulks, 60 km a sud di Budapest. Secondo il portavoce della polizia, 135 agenti hanno partecipato all'azione che ha portato alla cattura dell'assassino, un uomo di 24 anni. Una vicenda che sconvolse il mondo, una storia globale nata nell'Europa del 1912. 100 anni fa, il naufragio del Titanic. Secondo lo storico inglese Tim Maltin, la causa del disastro fu un miraggio. Quella del Titanic è una storia globale. Ha colpito la Gran Bretagna, l'Irlanda del Nord e del Sud, certo, ma c'erano anche tanti europei e persino persone che venivano dall'Africa, dalla Russia e molti dai paesi nordici. Il Titanic era come un'arca di Noè che rappresentava tutta l'umanità. La Marengo vide l'incidente proprio mentre accadeva, ma non era abbastanza vicina per essere subito d'aiuto e notò anche una rifrazione anomala all'orizzonte. La Deutschland riferì di un Luftspiegelung, che è la traduzione tedesca di miraggio. Anche la Niagara raccontò di un orizzonte sereno con miraggi. La vicenda del Titanic sarà oggetto del reportage a cura di Marta Cagnola in onda oggi alle 8.15 su Radio 24. Con un video Google ha svelato le funzioni dei suoi occhiali per la realtà aumentata. Per ora solo prototipi, questi occhiali, che saranno presto commercializzati, sono dotati di micro telecamere incorporate, in grado di scattare foto da condividere eventualmente con gli amici sui social network e di mostrare le informazioni su quello che si vede sui manifesti, ad esempio su concerti o mostre. Ma gli occhiali di Google possono dare informazioni anche sulla merce che si vede nelle vetrine. Le aziende dunque potrebbero mandare pop-up commerciali quando si passa davanti ad un negozio. I nuovi sviluppi destano preoccupazione dal punto di vista normativo. La Francia e l'Unione Europea hanno già chiesto chiarimenti a Google. La Commissione Europea inoltre sta indagando sull'ipotesi che il motore di ricerca favorisca i propri prodotti rispetto ad altri. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, a voi per l'ascolto, un saluto e un augurio di buona Pasqua da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.